Giorno rene, fa la cosa difettosa e andare via. Giorno rene, fonde mo vaso, ciò se parti. Un dia rene, a se che las cose sale. Un dia rene, fa as cosas mas partir. Making everything okay, or rainy day, make bad things go away. Tweet!